giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Produzione industriale in leggero aumento anche nel primo trimestre dell'anno, bene le vendite anche se il mercato interno va meglio di quello estero, l'andamento del settore nei dati di Confindustria. Barzi, la respinta dai sindacati e l'ipotesi aziendale di un incontro sull'avvio dell'iter per la cassa integrazione. Attacco hacker al sito web del porto di Trieste, una rivendicazione dalla Russia. La visita a Trieste della ministra Bernini, la panoramica sugli enti di ricerca è partita dall'area Science Park. Tra le criticità segnalate dalla regione, i sottofinanziamenti di Università di Udine e Sissa. San Giorgio di Nogaro, nuova protesta contro l'insediamento dell'acciaieria. In meno di un mese 6.000 firme contro 1.000 posti di lavoro. Salute mentale a Trieste, i familiari degli utenti chiedono il potenziamento dei presidi, un'iniziativa Barcola, immediato il riscontro. Gorizia e le vicende del suo territorio. Nell'ultimo libro dello storico Lucio Fabi, nostra intervista. Basket, la nazionale femminile si allena a Pordenone in vista dei campionati europei. Domenica amichevole con la Germania. 12:31 minuti, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. In apertura i temi dell'economia e del lavoro con gli ultimi dati sulla produzione industriale, ordini e vendite. I numeri regionali offrono un quadro fra crescita e stabilità, ma all'interno di uno scenario internazionale con molte incertezze. Sentiamo. Seppur di poco, la produzione industriale del Friuli Venezia Giulia nel primo trimestre dell'anno è aumentata ancora dello 0,5% dopo il balzo del 10% a fine 2022, cresciute anche le vendite di un ulteriore punto percentuale rispetto all'ultimo incremento del 6% e ad andare meglio il mercato interno rispetto a quello estero, in leggera flessione, segnali di tenuta dell'industria regionale nonostante le molteplici difficoltà che sta vivendo il sistema produttivo europeo, sottolinea il presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia, Pierluigi Zamò. Sostanzialmente positivi, salvo qualche segno meno, anche i valori tendenziali raccolti dalla prima indagine trimestrale dell'Organizzazione degli Industriali tra un campione rappresentativo di associati. L'occupazione continua a mantenersi stabile, anch'essa in lieve incremento, anche grazie agli interventi posti in essere a suo supporto, osserva ancora Zamò. Ottimistiche le previsioni espresse dalle imprese per il secondo trimestre 2023, sostenute dal buon andamento degli ordini, che segnano una crescita di oltre il 13% contro il 7% precedente, un dato che spinge una buona parte degli intervistati a ipotizzare un aumento delle assunzioni rispetto all'ultima rilevazione. Permangono diffusi i segnali di preoccupazione per l'incremento del costo del credito e l'atteso ulteriore aumento dei tassi bancari. Sul fronte degli investimenti per i prossimi 12 mesi, la maggioranza delle aziende fa sapere che punterà su sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico, digitalizzazione e formazione, priorità ineludibili che potranno contribuire all'incremento della competitività dell'industria regionale, conclude Zamò, e sulle quali, aggiunge, Confindustria Friuli Venezia Giulia punta molto anche con lo sviluppo del sistema degli istituti tecnici superiori. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. Il sito del porto di Trieste è inaccessibile da questa mattina a causa di un attacco hacker di matrice russa. Non è la sola autorità portuale a essere stata presa di mira. Risulta impossibile collegarsi anche ai siti del porto di Venezia e di Ravenna, mentre il porto di Genova è stato al centro di un attacco la scorsa settimana, ora risolto. Alcuni giorni fa la stessa sorte aveva avuto anche il sito del porto olandese di Rotterdam. Gli esperti di sicurezza cibernetica del porto sono al lavoro per mitigare il problema. La polizia postale è stata informata come da prassi. La visita a Trieste della ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Prima tappa questa mattina all'area Science Park. Nel pomeriggio le strutture del sincrotrone, la nave oceanografica dell'OGS. Un'intensa giornata nella Trieste scientifica, quella di oggi, per il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, in visita alle eccellenze della ricerca a partire stamani dall'area Science Park, accolta dalla presidente dell'ente Caterina Petrillo e dall'assessore regionale alla ricerca Alessia Rosolen. Numerosi rappresentanti delle istituzioni cittadine, soprattutto scientifiche e tecnologiche del SIS, il sistema scientifico e dell'innovazione che conta 17 istituzioni di fatto. Il Friuli Venezia Giulia è la regione d'Italia con il più alto numero di enti di ricerca, il più alto numero di scienziati pro capite. È in questo contesto che chiediamo alla ministra Bernini perché l'Italia investa ancora solo l'1,5% del PIL nella ricerca, quando l'Unione Europea chiede da anni di arrivare magari a superare il 3%, come già fanno buona parte dei paesi europei. Sicuramente si può fare di più, si può fare meglio, dice la ministra, ma già ci stiamo impegnando, mettendo a disposizione nuovi fondi per far sì non solo che i cervelli in fuga rientrino, ma che nuove persone straniere arrivino. L'assessore Rosolin, nel suo intervento, ricordando anniversari importanti quest'anno come l'OGS, ma anche i 100 anni dell'Università di Trieste, ha aggiunto: ministro, una criticità c'è, il fatto che purtroppo due enti non sono finanziati come dovrebbero, e si tratta di Sissa e Università di Udine. Nel pomeriggio la visita proseguirà nel campus di Basovizza e poi la giornata si concluderà con la visita istituzionale della nave rompighiaccio Laura Bassi dell'OGS, in programma alle 17:15. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Nuova protesta ieri sera a San Giorgio di Nogaro contro l'insediamento dell'acciaieria Metinvest Danieli nell'area industriale della Ussa Corno. 400 persone hanno partecipato in piazza del municipio a una manifestazione, appunto, alla quale hanno preso parte numerosi comitati organizzatori, tra i quali il coordinamento No Acciaieria e quello a difesa climatica e ambientale della Bassa Friulana, che proseguono la raccolta di firme per il ritiro della richiesta regionale di inserimento tra le aree strategiche nazionali, così da scongiurare la nomina di un commissario che potrebbe agire in delega alle leggi. Circa 6.000 le firme che sono state raccolte fin qui da inizio maggio. I comitati stanno ora valutando il loro invio alla regione prima della presentazione al governo del piano di finanziamento da 20 milioni per il progetto, che in tutto prevede un investimento di 1 miliardo di euro e la creazione di 1.000 nuovi posti di lavoro. Gli eventi meteorologici estremi frutto della crisi climatica aumentano di numero e di intensità. L'uomo fatica ad adattarsi, ma cerca di farvi fronte anche attraverso la prevenzione. Ne abbiamo parlato questa mattina. Buongiorno Regione. Di anno in anno la cronaca nazionale registra con una frequenza ormai allarmante il ripetersi di catastrofi naturali come frane e alluvioni di interi territori, l'ultima in ordine di tempo, l'alluvione in Romagna. Eventi estremi a cui dobbiamo purtroppo abituarci non solo a causa dei cambiamenti climatici, spiega la geologa dell'Università di Trieste, Chiara Calligaris. Quelli che noi chiamiamo eventi estremi sono degli eventi che si stanno verificando con maggior frequenza ma anche con maggior intensità. Nascono un po' per colpa nostra, un po' perché il clima è sempre cambiato nel corso dei millenni. Quello che abbiamo fatto noi come uomini è ovviamente accelerare, no, il loro cambiamento. E noi facciamo fatica ad adattarci, ovviamente, con la stessa rapidità con cui loro cambiano. Noi uomini abbiamo infrastrutturato tutto molto, e lasciando poca naturalità allo sfogo, ad esempio, anche delle acque, dei corsi idrici. E quindi questo causa purtroppo gravi danni. Fondamentali sono prevenzione e cura del territorio. In Friuli Venezia Giulia che cosa si sta facendo? Si sta investendo comunque molto. Fino a quando non c'è l'evento grave non ci si rende nemmeno conto di quanto si sta facendo. Perché ad esempio ieri proprio vedevamo anche dei semplici interventi di sghiaiamento, che a volte fatti in corrispondenza dei sottopassi stradali evitano magari che le colate di fango o di detrito vadano ad impattare sulla viabilità e quindi salvino la vita magari alle persone che stavano transitando in quel momento. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli, Venezia Giulia. 12:39, uno sguardo alla situazione del tempo. Cielo sereno quasi ovunque sul Friuli Venezia Giulia. Le temperature a Trieste 22,5 gradi e la stessa temperatura anche quella del mare. A Udine 25, a Pordenone e a Gorizia 24,5 decimi. Nell'area montana a Tolmezzo 22,5, a Tarvisio e a Forni di Sopra 20 gradi, a Sappada 19, sul Piancavallo 15 gradi, sull'Ussari 13, sullo Zoncolan 11,5 decimi, sulla costa Lignano 25,5, a Grado 22,5, con temperatura del mare nelle due località 23 gradi. Le previsioni a cura dell'Agenzia regionale di protezione ambientale: dal pomeriggio variabilità con possibili rovesci temporali locali più probabili sulle prealpi e in alta pianura, meno sulla costa. Per domani al mattino cielo in genere poco nuvoloso e tempo ancora stabile. Dal pomeriggio variabilità con possibili rovesci temporali locali più probabili sulle prealpi e alta pianura, meno sulla costa. Il coordinamento per la difesa della sanità pubblica a Trieste ha organizzato questa mattina davanti al centro di salute mentale di Barcola una mobilitazione per chiedere il rafforzamento dei servizi nei CSM. Serve un segnale forte, avevano spiegato gli organizzatori, perché questi presidi non sono più solidi né flessibili né riescono più a rispondere alle esigenze di tante persone che chiedono accoglienza, cura, sostegno, possibilità di concreta integrazione. Sentiamo allora com'è andata. Sventola la bandiera della pace sul centro di salute mentale di Barcola a Trieste, dove si è appena conclusa una protesta pacifica da parte del Comitato per la Salute Pubblica, capitanato dallo psichiatra basagliano Peppe Dell'Acqua. Molte le persone che hanno partecipato, sia della società civile, sia gli utenti stessi dei centri di salute mentale, sia esponenti dei partiti di opposizione e i sindacati. L'idea era quella di incatenarsi al cancello dell'ingresso principale di questo centro di salute mentale, che è chiuso da quasi 2 anni. Non c'è stato bisogno di farlo, perché i manifestanti hanno trovato le porte del cancello aperte, spalancate, tante sedie dove sedersi all'interno del piccolo cortile e in un clima di generale accoglienza. Il direttore del Dipartimento ASUGI di salute mentale, Pierfranco Trincas, e anche direttore del centro di salute mentale di Barcola, ha partecipato anche lui a questa manifestazione dicendosi d'accordo con i principi che vengono portati avanti dal Comitato e da Peppe Dell'Acqua. Sicuramente anche lui è favorevole a una maggiore inclusività dei pazienti e a un'attenzione, a una sensibilità maggiore, come richiesto peraltro dalla filosofia basagliana. Ha promesso che arriveranno sia psichiatri che psicologi, al momento ne mancano su tutta la pianta organica di ASUGI 3 per quanto riguarda gli psichiatri, 6 per gli psicologi, e a breve quindi ci saranno i concorsi. La sede di via Gambini, che al momento è chiusa per 12 ore al giorno, resterà invece aperta sulle 24 ore, come già avviene negli altri centri di salute mentale della città. Il clima è stato generalmente di molta partecipazione e di volontà di collaborare per cercare di mettere un freno a quello che tutti i manifestanti qui hanno dichiarato essere un tentativo di depauperamento dei servizi per la salute mentale degli utenti. Abbiamo parlato anche con alcuni utenti che trovano sempre più difficoltà nel fissare degli appuntamenti con gli psichiatri o nell'avere le giuste attenzioni che chiedono. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. È pronto ora il servizio sull'avvertenza Varsila, non si è fatta attendere la risposta dei lavoratori dopo la richiesta dell'azienda di un incontro sull'avvio dell'iter per la cassa integrazione. I sindacati hanno respinto l'invito di convocazione e chiamano a sostegno governo e regione. Una lettera ufficiale dove Varsila chiede ai sindacati di avviare un confronto sulla cassa integrazione. L'azienda sostiene di aver rispettato pienamente gli impegni dell'accordo di novembre e chiede di fare altrettanto i rappresentanti dei lavoratori. Le condizioni erano la ricerca di qualcuno disposto al subentro, il rinvio della procedura di licenziamento al 1 ottobre 2023 e la consegna del piano industriale su chi rimane, in cambio dell'uso del contratto di solidarietà per accompagnare il percorso di reindustrializzazione. È sul primo punto che i sindacati non sono d'accordo. La ricerca si è conclusa infatti con una sola opzione di subentro, la startup italiana H2 Energy, che secondo lo stesso governo non è ritenuto un soggetto abbastanza grande per rilevare lo stabilimento di Bagnoli della Rosandra. Varsila, che spende 2,5 milioni al mese di stipendi per lavoratori che per scelte aziendali non producono, ha chiesto un incontro urgente ai sindacati, ricevendo però picche. Antonio Rodà, Wilm. Non è stata una comunicazione inaspettata, l'azienda è a più riprese che ci sta provando, anche negli ultimi incontri ministeriali girava sempre, diciamo, lo spettro della possibile apertura della discussione sulla cassa integrazione. Noi una volta di più ribadiamo un concetto molto chiaro: saremo pronti a discutere di ammortizzatori sociali che traguardino una riconversione industriale nel momento in cui emergerà un piano industriale. Oggi questo non c'è, l'azienda su questo è stata inadempiente, doveva tirare fuori dei nomi e dei soggetti industriali in tempi ben diversi. Oggi c'è una scadenza a settembre che per noi non può essere più quella. La palla, inevitabile, passa alle istituzioni. Regione, ma soprattutto governo, stanno cercando soluzioni per garantire non solo l'occupazione, ma soprattutto la continuità industriale, tra cui quella del coinvolgimento ufficiale dei giapponesi di Mitsubishi, finora molto cauti. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Notizia di cronaca, carenze nella tracciabilità e prodotti scaduti sono stati riscontrati dai carabinieri del nucleo antisofisticazione in una serie di controlli sui cosiddetti grossisti etnici su tutto il territorio nazionale. A Trieste sono state rilevate irregolarità in 5 esercizi commerciali dove sono state elevate sanzioni per circa 30.000 euro e sequestrati circa 15 kg di prodotti alimentari. La campagna di controlli proseguirà per tutto il mese di giugno. Ultimo giorno di scuola per la maggioranza degli studenti, si chiude un anno che è stato denso di novità e moltissime sono quelle in arrivo per l'anno prossimo. Abbiamo incontrato a Udine alcuni dirigenti scolastici e qualche ragazzo delle superiori. Tra oggi e domani è ultima campanella per le scuole, ad eccezione degli studenti della maturità e per quelli che dovranno fare l'esame di terza media. Un anno che è assegnato per gli studenti e per i docenti ritorna alla normalità. Per i ragazzi non impegnati negli esami comincerà un lungo periodo di riposo e vacanza. Stefano Stefanelli, dirigente scolastico Marinelli. È stato un anno molto importante questo, perché è il primo dall'uscita dopo 3 anni di Covid, che per la scuola sono stati molto pesanti. Un anno che ha visto nascere una novità dietro l'altra, dal PNRR ai docenti tutto, al ripristino dell'esame di Stato come prima del Covid. Lo chiudiamo abbastanza provati, però penso insomma anche con grande soddisfazione. È stato comunque un anno abbastanza difficile, perché noi siamo in quarto, quindi hanno preteso un po' da noi, però è stato un bel anno alla fine, poi siamo tornati un po' a quella che è la normalità. È stato un bel anno. Faticoso, però siamo arrivati alla fine, siamo contenti. Monica Napoli, dirigente scolastica Stringer. Siamo tornati alla normalità dopo il periodo pandemico. È stata una ripresa un pochino in salita, però vedo che alla fine dell'anno insomma tutti i ragazzi sono contenti e ci auspichiamo di continuare così. Noi abbiamo ripreso con gli eventi e il prossimo anno ritorneremo alla normalità veramente come pre-Covid. È un'emozione, è come lasciare una famiglia, alla fine sono 5 anni, abbiamo passato tutti qua insieme con gli assistenti, i professori, è come lasciare un pezzo di cuore. Sono finiti questi 5 anni pieni di esperienze, di tirocini, di professori, di amicizie e siamo pronti a catapultarci nel mondo del lavoro. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Lo storico stabilimento balneare di Castelreggio nella Baia di Sistiana ha riaperto i suoi spazi al pubblico grazie alla conclusione di un lungo iter procedurale per l'affidamento della concessione da parte del comune di Duino Aurisina alla società SRS, che gestisce anche le spiagge del Parco Caravella e una discoteca. Una riapertura, sottolinea il sindaco Gabrovez, che rilancia l'attività turistica e che conferma l'affidabilità di un'azienda che ha sempre dimostrato serietà e rispetto del territorio. Prossima tappa, una concessione trentennale che consenta una vera ristrutturazione dell'area. Chiese aperte a un'ora insolita, la sera si chiama la Lunga Notte delle Chiese, l'iniziativa avviata nel Bellunese 7 anni fa, prendendo spunto da un'idea già consolidata nella vicina Austria. La rassegna si propone di avvicinare in modo diverso i fedeli alla Chiesa e ha per media partner la TGR. Nel servizio la voce di Don Nicola Ban, parroco della Cattedrale di Gorizia. La lunga notte delle chiese è la notte bianca dei luoghi di culto in cui si fondono musica, arte e cultura in chiave di riflessione e spiritualità. 120 diocesi, 150 chiese aperte in tutta Italia, centinaia gli eventi. In Friuli Venezia Giulia ad aprire le proprie porte sono le chiese di Gorizia, Sant'Ignazio e San Rocco, tema dell'iniziativa Chi sei, dove sei. A Sant'Ignazio avremo un concerto preceduto da un aperitivo culturale a partire dalle 19.30, mentre alle 20.30 ci sarà il maestro Musettini che con il suo clavicembalo farà nella chiesa di Sant'Ignazio, questa imponente chiesa barocca, una serie di brani del repertorio barocco dedicato al clavicembalo. Eventi di questo tipo di fatto avvicinano le persone alla chiesa, c'è bisogno di questo? Non avvicinano alla liturgia, avvicinano, però fanno sentire che la Chiesa è una comunità che è attenta ai diversi aspetti della vita. Credo che soprattutto in vista anche di Nova Gorizia, Gorizia 2025, capitale europea della cultura, avere delle occasioni per far vedere come il messaggio evangelico ha plasmato la nostra cultura è qualcosa di molto importante. Far riscoprire le radici cristiane della nostra terra, anche se non porta la gente in chiesa alle liturgie, sicuramente risveglia quelle domande che sono soppite nel cuore e che per noi sono tanto importanti. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Si intitola Gorizia, storia di una città, il libro che sarà presentato dall'autore Lucio Fabi, in cui si approfondiscono le vicende del capoluogo esontino considerandole come una drammatica sintesi di quelle del mondo contemporaneo. Appuntamento a Gorizia, alla Galleria Prologo di via Ascoli alle 18. Abbiamo intervistato Fabi per chiedergli quali sono le vicissitudini più rilevanti della storia goriziana recente. La storia di Gorizia nel Novecento ha alcuni momenti cardine. Il primo è senz'altro il passaggio dall'impero asburgico al Regno d'Italia susseguente alla Prima Guerra Mondiale, che porta allo smembramento etnico e culturale della città, che da multietnica e multiculturale diventa ad impronta nazionalista molto forte. Il secondo momento cardine è senz'altro la Seconda Guerra Mondiale, soprattutto la fine della Seconda Guerra Mondiale, soprattutto con la tragedia che colpisce Gorizia, occupata prima dai tedeschi, dai nazifascisti, poi liberata ma anche occupata dall'esercito jugoslavo del maresciallo Tito, la compressione della cultura slovena, il momento tragicissimo delle deportazioni e delle foibe conseguenti ai 40 giorni dell'occupazione jugoslava del litorale di Trieste e di Gorizia, portano delle ferite che lentamente la memoria individuale e collettiva della città sta ricucendo. Terzo punto potrebbe essere il 2025, con questa grande invenzione delle due città non più divise, Gorizia e Nova Gorizia, che mettono insieme un anno della cultura, una festa della cultura europea che potrebbe dare i suoi frutti. Staremo a vedere. E a Gorizia si apre il Festival delle Lingue, due giorni dedicati alla conoscenza, all'esperienza viva del plurilinguismo, nello scenario di uno dei luoghi simbolo dell'identità plurale, cioè l'ex ghetto ebraico di via Ascoli. Nel pomeriggio alle 17 la presentazione a casa Ascoli, a seguire l'intervento intitolato La nostalgia di una patria perduta, Gorizia vista da Vienna, della scrittrice austriaca Christine Casapicola. Nella pagina degli spettacoli spicca il concerto di questa sera al Teatro Nuovo. Stefano Bollani incontra l'orchestra giovanile Filarmonici Friulani e i suoi quasi 70 musicisti. Quello di Udine è il primo di due concerti, l'altro domani al Rossetti di Trieste. Il programma è un mix di classica e jazz tra Gershwin e l'estro dello stesso Bollani e tra Rapsodia in blu e Concerto Azzurro. Passiamo allo sport con il calcio. L'uomo del giorno è il 17enne Simone Pafundi, attaccante dell'Udinese e protagonista del successo azzurro sulla Corea del Sud ai mondiali Under 20 in Argentina. Suo il gol decisivo nei minuti conclusivi della partita, il 2-1 segnato su calcio di punizione, una pennellata di sinistro con il pallone all'incrocio dei pali. L'Italia accende dunque per la prima volta la finale del torneo, titolo da contendere all'Uruguay che ha eliminato Israele. E per Pafundi un rilancio personale dopo alcune prestazioni poco brillanti e 82 minuti trascorsi in panchina nella stessa semifinale. Sono bastati pochi giri di lancetta perché la sua presenza diventasse fondamentale e incancellabile. Basket: si allena in questi giorni a Pordenone la nazionale femminile, domenica l'amichevole con la Germania, poi gli europei in Israele. La nazionale di basket femminile è a Pordenone per gli ultimi allenamenti prima degli europei. La incontriamo al Palazzetto dello Sport. Martina Bestagno è capitana della squadra. Gli allenamenti stanno andando bene, umore e spirito sono alti, ci stiamo avvicinando agli europei, quindi gli ultimi allenamenti, definiamo ancora qualche dettaglio e poi siamo pronte. Qual è l'obiettivo? Obiettivo sarebbe entrare nelle prime sei, questo significherebbe poi qualificarsi per il preolimpico di febbraio prossimo. L'ultima amichevole in programma domenica con la Germania, sempre al Pala Crisafulli di Pordenone alle 20 con ingresso libero. Lino Lardo, allenatore. Ormai sono quasi 3 settimane che ci alleniamo, chiaramente stiamo mettendo a punto un po' le ultime strategie, stiamo lavorando bene, abbiamo avuto qualche acciacco, qualche problemino che ci può stare in questo momento della stagione, però adesso siamo pronte e concentrate perché insomma un campionato europeo importante dove chiaramente vogliamo fare molto bene. E perciò insomma adesso abbiamo anche quest'ultima amichevole domenica con la Germania e poi si va a Tel Aviv pronti per essere pronte a dare soddisfazione a soprattutto queste ragazze che si allenano molto bene, devo dire, e che ci tengono molto alla maglia azzurra. Però ci piacerebbe fare un europeo che possa veramente dare anche una spinta a tutto il movimento femminile. Ci sono tutti i presupposti perché anche Pordenone ci possa portare bene e che possiamo fare un grande europeo, sempre ammesso che le avversarie ce lo permettano. È importante anche per le ragazzine vederci vincere, vederci fare bene, così che si possano anche loro avvicinare a questo bellissimo sport. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. In chiusura i libri con alcuni appuntamenti in breve. La terapia del bar è il volume di Paolo Ciampi che sarà presentato dall'autore a Trieste alla libreria Lovat alle 18. Per la rassegna Libri da Vicino, organizzata dalla Fondazione Pordenone Legge, la scrittrice Carmen Gasparotto presenterà il suo libro Chiavi di Riserva, Pordenone, a Palazzo Badini alle 18. I giornalisti Antonella Galli e Pierluigi Masini per la rassegna I colloqui dell'Abbazia, il viaggio della carta geografica di Livio Felluga, presenteranno il loro libro I luoghi del design all'Abbazia di Rosazzo alle 18. Proporrà una serata teatrale e letteraria la presentazione del libro La lettera parlata, a cui interverranno lo scrittore Massimiliano Alberti e l'attore Lorenzo Zuffi. A Trieste la libreria Ubic in galleria Tergesteo di Piazza Borsa alle 18. Costantino Dardi, La tassellatura terrestre, questo è il testo di architettura curato da Adriano Venudo, in presentazione a Trieste la stazione Rogers alle 18.30. L'attrice Diana Höbel leggerà alcuni brani del romanzo Quasi buio di Rita Siligato, finalista al premio Calvino 2022, a Trieste, alla libreria Minerva di via San Nicolò alle 17.30. È tutto per questa edizione che è stata realizzata da Maria Spezia e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Tommaso Vinoni e Roberto Cavallari, ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Sono le 12:56:30, prossima edizione alle 15. A tutti voi grazie per l'attenzione e ancora buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.